Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. La notizia di questi giorni è la presentazione delle nuove proposte della Commissione europea nell'ambito del pacchetto mobilità pulita. L'obiettivo finale dichiarato è ambizioso: entro il 2030 i costruttori di auto comunitari dovranno offrire sul mercato una flotta che abbia il 30% e meno di emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2021. Per raggiungere questo risultato è fissato anche un obiettivo intermedio, il 15% entro il 2025. Il pacchetto, che chiaramente potrà essere emendato, comprende anche altre misure. Una finanziata con 800 milioni di euro intende incentivare la costruzione di infrastrutture per il rifornimento o la ricarica delle auto elettriche a idrogeno o a batteria. C'è poi un'iniziativa a favore della ricerca e dell'innovazione nel settore delle batterie, finanziata con altri 200 milioni di euro. Proposte dunque nel segno della sostenibilità che coinvolgono il mondo dell'autotrasporto, già peraltro interessato dalla prima serie di provvedimenti inseriti nel pacchetto e presentati in primavera. Al nostro microfono Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e Unatras. In maggio era stato presentato il pacchetto L'Europa in Movimento, che sanciva alcuni concetti: rendere il traffico più sicuro, il pedaggio intelligente, ridurre gli oneri burocratici e soprattutto il lavoro in nero. Oggi la Commissione ha presentato questo nuovo pacchetto, che è volto soprattutto alla riduzione delle emissioni dell'ambiente. Sicuramente siamo a favore tutti della riduzione dell'ambiente, perché ci viviamo anche noi, ci vivono le nostre famiglie. Quindi la spinta è l'utilizzo di forme di energie alternative. Basti pensare ai nuovi veicoli LNG che ormai tutti i costruttori hanno presentato, al combinato treno TIR, nave e chiatte anche, e all'ottimizzazione del sistema di trasporto. Sicuramente la nostra categoria è sul pezzo, è a favore di queste nuove tecnologie, però sicuramente ci vorrà una redditività anche aziendale, che purtroppo in Italia non c'è, perché le nostre aziende non hanno reddito, i tempi di pagamenti sono quelli che sono. Quindi l'Europa deve dire: signori e signori, bisogna che vi diamo un aiuto a far sì che si possano cambiare questi veicoli per arrivare agli obiettivi 2025 che si prefiggono nel 2030. Come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, i ministri del lavoro hanno trovato un accordo sulla riforma della direttiva comunitaria relativa al distacco internazionale dei lavoratori. Dall'intesa però è stata stralciata la categoria degli autotrasportatori. Di loro dovrà occuparsi appunto il pacchetto mobilità. Al di là della possibilità di trovare un'intesa, c'è il rischio concreto che non si faccia in tempo ad approvare il provvedimento entro la fine della legislatura. Significa che nel frattempo il mercato dell'autotrasporto resta in balia di fenomeni come il dumping sociale, che alterano ogni equilibrio. Su questo punto sentiamo ancora Amedeo Genedani. Visto che a livello europeo si vuole raggiungere certi obiettivi, quando poi si esclude dai distaccati la possibilità che l'autotrasporto sia dentro le stesse regole degli altri settori, quindi automaticamente è quasi un controsenso il fatto che da un lato non si abbassa la concorrenza del costo del lavoro, ma soprattutto i costi europei non sono ancora livellati, quindi le aziende di trasporto che debbono competere a livello europeo, c'è sempre un differenziale, subiamo il dumping che tuttora oggi è molto concreto, che tocchiamo con mano. Voltiamo pagina. Nel Mediterraneo arrivano navi sempre più grandi. Secondo i dati diffusi da un centro di ricerche britannico, nell'ultimo anno le dimensioni delle navi sono aumentate in media del 10%. Vuol dire che il cosiddetto fenomeno del gigantismo navale non si ferma, anzi accelera. Navi più grandi significa navi che trasportano carichi maggiori, in particolare container. Vuol dire quindi che cargo di queste dimensioni necessitano di banchine di ormeggio adeguate, un'organizzazione in termini di modalità di lavoro e di infrastrutture da adattare ai crescenti volumi di traffico. Ma per spiegarci un po' meglio quali sono gli impatti del gigantismo navale sulla catena logistica di un territorio, ci siamo rivolti a Marco Conforti, rappresentante italiano nel board di FEPORT, l'associazione dei terminalisti europei. Ascoltiamolo. Significa che il carico di due o tre navi viene messo su una nave sola. Significa che i porti che le navi servivano, anziché due o tre, diventa uno solo. Le gru che servivano quelle navi devono essere cambiate, anche se nuove o seminuove, per essere più grandi, e le banchine devono essere più profonde. Quindi è una rivoluzione, sono degli investimenti nuovi sia in infrastrutture sia in equipment molto rilevanti. Questa è un'opportunità, ma è anche un rischio. I rischi sono fare dei grossi investimenti creare delle concentrazioni e delle congestioni in certi punti, magari trovarsi una dinamica dei traffici che non giustifica questi cambiamenti. L'opzione invece win-win è quella di sì, le navi più grandi creano dei grossi problemi, però è vero anche che è un mondo che cambia e che le navi più grandi dovrebbero portare più volumi. Più volumi possono creare dei miglioramenti in un processo logistico che parte dal mare, passa dai porti e tutta la catena. Ma di fronte a navi sempre più grandi, in particolare sulla rotta tra il Far East e l'Europa, l'Italia è nelle condizioni di attirare i traffici e che grado di competitività ha rispetto agli altri paesi? Sentiamo ancora Conforti. La fonte di ricerca internazionali accreditano uno scambio mondiale dei contenitori per quest'anno di più di il 6%. In Italia, il primo semestre del 2017 verso 2016, siamo andati come contenitori nazionali più del 5%, quindi ci sono i volumi nuovi. Questo significa però rendere i porti e tutte le reti inland adeguate a queste navi e queste concentrazioni, se no si cade nel discorso della congestione. Una parte importante è stata fatta dal governo, che ha affrontato temi veri di pianificazione, di scelte strategiche e di sburocratizzazione. Vanno completati. I privati devono investire, la pianificazione deve essere fatta bene e poi bisogna essere pronti ai cambiamenti che questi processi comportano. La competitività di un sistema logistico passa necessariamente da una rete infrastrutturale ed intermodale efficiente. In Europa i corridoi TEN-T rappresentano le vie strategiche per le merci. Di uno di questi, come ricorderete, abbiamo parlato diffusamente negli ultimi mesi. Mi riferisco al corridoio ferroviario Reno-Alpi. La linea, infatti, era rimasta interrotta per 50 giorni a Rastatt, in territorio tedesco, a causa di uno smottamento avvenuto il 12 agosto. Secondo i calcoli del Servizio di Informazione per i trasporti pubblici elvetici, nel terzo trimestre 2017, che comprende quindi il periodo della chiusura, le tonnellate chilometro, cioè la misura del volume di attività in transito sulla linea, sono state il 6,4% in meno. A proposito di infrastrutture, torniamo in Italia, torniamo ad occuparci di un'emergenza che riguarda la viabilità e quindi il tessuto logistico di un territorio ad alta densità produttiva. Parliamo dell'emergenza ponti sul Po, che da mesi condiziona pesantemente i collegamenti tra la Lombardia e l'Emilia. Ponti vecchi, non più sicuri, sui quali la circolazione è stata interrotta o si svolge con restrizioni, argomento che abbiamo già trattato nello speciale andato in onda il 1 novembre. La novità di queste ore è che è stata depositata la relazione tecnica redatta dal perito incaricato di valutare le condizioni strutturali del ponte che collega Colorno a Casalmaggiore. Siamo quindi tra le province di Parma e Cremona. L'infrastruttura cruciale per quest'area è chiusa dal 7 settembre. Il perito ha valutato come e in quali modi si può intervenire per ripristinare la circolazione e indicato anche quanti quattrini occorreranno. Si parla di 5 milioni di euro. Sentiamo meglio cosa è emerso da Giampaolo Serpagli, delegato alla viabilità della provincia di Parma. I tempi sono più o meno un anno, in un anno mettiamo appunto una pezza, noi risolviamo totalmente il problema, abbiamo qualche buona notizia, la prima delle due regioni che sono intenzionate a mettere le risorse, la seconda da un emendamento al decreto fiscale per 35 milioni di euro sui ponti dell'Emilia occidentale, quindi anche il ponte di Casalmaggiore. La necessità del ponte nuovo non viene eliminata perché sono pezze, ripeto, quelle che mettiamo. Ormai il tempo ha deteriorato notevolmente questo ponte e non è più sanabile il decremento che ha avuto. Ora un focus sul mercato degli autocarri. Secondo i dati elaborati da Unrae, dopo la flessione estiva a settembre, le immatricolazioni dei veicoli con massa superiore alle 3 tonnellate e mezza si sono riallineate ai valori dello stesso mese dell'anno scorso, in linea con il 2016 anche il dato complessivo dei primi 9 mesi. Altri numeri che in qualche modo possono costituire un indicatore sul quale valutare l'andamento e le tendenze del settore dell'autotrasporto arrivano da ANAS e ci dicono che ad ottobre 26.000 km chilometri della rete, il traffico di mezzi pesanti è aumentato del 3% rispetto a 12 mesi prima. Sopra la media la circolazione nelle regioni del centro e in Sicilia. Resta da capire, i dati di ANAS non possono certo aiutarci, quanto incide su questo aumento il traffico dei veicoli con targa straniera impegnati nei servizi internazionali o di cabotaggio. Con questo mi fermo qui, noi ritorniamo con hashtag autotrasporti lunedì alle 13.45. Vi ricordo nel frattempo l'appuntamento con Container in onda il sabato alle 13.15, curato da Massimo De Donato. Un approfondimento su questi temi da Andrea Ferro, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.